Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, e poi è venerdì, ma torna, prima volta nel 2016, anche la poco invidiabile classifica degli sprechi o del cattivo utilizzo del denaro da parte della nostra pubblica amministrazione locale, comunale, provinciale, regionale, nazionale e anche europea. Vi dico subito che oggi, infatti, il primo posto andrà agli euro sprechi, perché non è che ce l'abbiamo solo con le amministrazioni locali. Detto questo, anche le spese per i capodanni, vabbè, adesso vi arriviamo. Parleremo chiaramente anche di altri dati di carattere ancora più strettamente economico-finanziario. Mi riferisco, come già anticipato dai nostri GR24, al dato sull'aumento congiunturale del prezzo degli immobili. Traduco, per la prima volta da 4 anni, andando ad analizzare l'indice dei prezzi delle case, delle abitazioni acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi sia per investimento, si è avuto un rialzo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, al secondo trimestre del 2015, e non capitava un rialzo congiunturale da 4 anni. Va detto però che se sono ripartiti sui trimestri precedenti, ancora nel terzo trimestre rispetto a un anno prima siamo sotto, meno 2,3%. Ma la cosa importante è il dato non tendenziale, cioè anno su anno, ma congiunturale, trimestre su trimestre, perché segnala un riavvio dei prezzi delle abitazioni, non stratosferico, più 0,2%, però le abitazioni nuove hanno fatto come prezzi più 1,4%, ferme invece le abitazioni già esistenti. E molti indicatori, ne parleremo, comunque molti analisti ritengono che questo possa essere il giro di boa in un mercato immobiliare che negli ultimi anni ha continuato a calare anche come prezzi. Le compravendite erano già aumentate a fine 2015. Per quello, tra l'altro, oggi si è saputo anche che il fondo sovrano azero dell'Azerbaigian, State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan, ha raggiunto un accordo per comprare Palazzo Turati, che è un edificio storico in pieno centro di Milano, molto bello tra l'altro, è affittato alla Camera di Commercio di Milano per 97 milioni di euro, e questo sempre nel giorno in cui si scopre, per modo di dire, che i prezzi in Gran Bretagna sono di nuovo alle stelle, soprattutto chiaramente a Londra, tant'è che c'è chi teme vi possa essere una nuova bolla sul mercato immobiliare, e il cancelliere dello scacchiere britannico Osborne ha detto: stiamo verificando anche un possibile incremento dei tassi sui mutui in modo da raffreddare il mercato che ormai chiamano del mattone d'oro anche in Gran Bretagna. Pensate che il costo medio di ogni singola unità abitativa in Gran Bretagna è passato da gennaio a dicembre da 190.000 sterline in media a 210.000 sterline in media, tanta roba, sono 280.000 euro, ma è quello che è importante, l'incremento di oltre 30.000 euro in un solo anno come prezzo medio dell'abitazione. E appunto, e il rischio lì è l'opposto che da noi, ossia lì il rischio proprio di bolla speculativa sul mercato immobiliare. Questo come tema. Oggi ci occuperemo molto di Italia, anche perché al di là del mercato immobiliare segnaliamo l'andamento da un lato delle entrate fiscali con un aumento molto forte dovuto in buona parte all'anticipo al 30 novembre dell'autoliquidazione di IRPEF e IRES, quindi attenzione, anche perché sulla lotta all'evasione invece il dato non è buono: 97 milioni di euro in meno, meno 1,3% nei primi 11 mesi. Non sono diminuiti gli accertamenti, è diminuito quello che hanno scoperto evidentemente, però complessivamente, grazie all'anticipo dell'autoliquidazione IRPEF e IRES c'è un più 9%, sono 32 miliardi e 600 milioni di euro in più. Segnalo che oggi arrivano buoni dati per quello che riguarda l'economia e vanno presi sempre in maniera relativa. Se c'è un segno più dopo 5 anni di segno meno, è ovvio che la situazione è ancora pesante per il paese e per la maggior parte delle famiglie. E quindi bisogna stare attenti. Poi il governo giustamente dice l'Italia cambia verso, è ripartita. Ok, voi vi lamentate e anche in maniera pesante al 349-238-6666 sia su SMS che su WhatsApp perché questa ripresa non la vedete. Tutte e due le cose ci stanno, non bastano un segno più, due segni più dopo anni di segno meno per far ripartire un'economia, per dire che la situazione è effettivamente migliorata, ma sono il segnale che qualcosa sta ripartendo. Perché lo dico? Perché oggi c'è anche un dato sulla spesa delle famiglie che nel terzo trimestre è aumentata dello 0,4% e soprattutto dell'1,2% rispetto al terzo trimestre del 2014, e il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici, che tiene conto anche dell'andamento dei prezzi, è chiaro, con l'inflazione a zero, non nei generi a maggior consumo ma in generale a zero, il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici è aumentato sempre nel terzo trimestre dell'1,4% rispetto a un anno prima, ed è l'aumento più forte dal secondo trimestre del 2007. E questo è il fronte italiano. Poi avremo anche un approfondimento di borsa come sempre. Milano perde adesso l'1,04%, Parigi l'1,12%, Francoforte lo 0,80%, Londra meno 0,30, il Dow Jones è invariato. Questa mattina c'è stato un rimbalzo del 2% a Shanghai e Shenzhen, c'è stata una chiusura invece debole ancora a Tokyo, meno 0,40, un po' di rialzo a Hong Kong, più 0,70%, ci sono state voci di un intervento di fondi pubblici a sostegno nella borsa di Shanghai dopo il tonfo di ieri, dopo che la Cina ha levato il meccanismo introdotto solo il 3 gennaio, quello che andava a bloccare tutte le contrattazioni per l'intera giornata quando lo scostamento era superiore al 7%, meno 7 o più 7. Pechino ha anche interrotto le svalutazioni della sua valuta, quindi il renminbi yuan è tornato a crescere anche nei confronti del dollaro. Mentre adesso vi arriviamo, buone notizie arrivano sul fronte statunitense. 349-238-6666, dicevo, per gli SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, dicevamo dagli Stati Uniti, buone notizie invece. Devo dire che in questo inizio 2016 le uniche buone notizie arrivano dagli Stati Uniti. 292.000 posti di lavoro creati, sì, la disoccupazione scende al 5%, il dato è migliore delle attese. Pensate che nel 2015, non voglio tornare ogni volta sul tema, ma grazie a una politica economica statunitense molto europea, prima diciamo dell'Europa di una volta, e cioè stampaggio di valuta, di dollari, assorbiti dall'economia perché anche il settore statale ha fatto investimenti importanti, e quindi obiettivo della Banca Centrale Americana, della Fed, aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione. Chi se ne frega del deficit fino a un certo punto e dell'inflazione che ancora non c'è nemmeno negli Stati Uniti. Questo effetto ha riportato l'economia americana, questa operazione ha riportato l'economia americana ai livelli precedenti alla crisi, e a questo punto nel 2015 gli Stati Uniti hanno creato 2.650.000 posti di lavoro, che vanno a sommarsi ai 3.120.000 creati nel 2014. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. Anche se un po' insidioso e tra le insidie del terrorismo e delle tensioni geopolitiche, la ripresa americana continua a creare posti di lavoro. Negli Stati Uniti l'economia ha creato infatti 292.000 nuovi impieghi, mantenendo il tasso di disoccupazione invariato al 5%. Il dato ha battuto nettamente le attese. L'exploit di dicembre ha fatto salire la media mensile per l'intero 2015 a 221.000 nuovi posti. In 12 mesi sono stati così creati 2,7 milioni di impieghi contro i circa 3,1 milioni del 2014. Ripresa sì, insomma, ma non con lo stesso ritmo che si è visto 2 anni fa. Altre aree del mercato del lavoro restano invece opache, il tasso di partecipazione della forza lavoro resta sempre sotto il 62,7% di fine 2014 e vicino ai livelli minimi dalla fine degli anni 70. Ma il dato che un po' preoccupa e che ci ricorda quanto sia importante anche in Italia è la mancata crescita dei salari. I salari sono infatti cresciuti del 2,5% su base annua, ma la crescita dei salari per i lavori non dirigenziali, che in America sono circa l'80% della forza lavoro, è meno del 2%. Questo numero non riflette neppure l'inflazione. Insomma, come dire, che la crescita dei salari è ancora troppo bassa per sostenere una crescita del PIL forte come l'America si intende e soprattutto come gli altri paesi si aspettano da superpotenza come lei. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due notizie in breve per quello che riguarda l'economia europea. Parliamo della Germania. Il 15 gennaio la cancelliera tedesca Angela Merkel riceverà il presidente della BCE Mario Draghi per uno scambio di vedute. Incontro di routine, ma in Germania si è registrato un imprevisto, inatteso calo nella produzione industriale, come già ricordavamo anche ieri. Il calo è dovuto soprattutto al rallentamento cinese e del Brasile, e chissà che, appunto, la battuta è sempre la solita, ma la rifaccio: chissà che anche in Germania non ci si renda conto che guardare e basare la propria crescita economica solo sulle esportazioni fuori dall'Europa, investendo fuori dall'Europa, non rischi poi di azzoppare l'altra gamba, ossia se tu non fai per ripartire il mercato interno europeo, poi ogni volta che il Brasile va in recessione, la Cina rallenta, tu ne paghi le conseguenze. Perché la Germania così è andata avanti per anni, chiedeva misure draconiane in Europa, nell'area euro, perché tanto gli investimenti suoi, grazie al surplus di bilancio, li portava fuori dall'Europa e perché poi vedeva nei mercati cinese, brasiliano, i mercati emergenti, il futuro. Ora, questi mercati sono uno in recessione, l'altro in rallentamento, e la Germania oggi segna una produzione industriale a novembre in calo dello 0,3%, gli analisti si aspettavano un più 0,5%, pesano soprattutto il calo negli investimenti, meno 3,3%. I produttori, secondo il Ministero dell'Economia tedesca, sono stati esitanti nel programmare la produzione dell'ultimo trimestre perché per via della frenata dei paesi emergenti. (349) 238 6666 per i vostri SMS e per WhatsApp. Adesso partiamo con la poco invidiabile classifica di Focus Economia, poi come sempre il caso virtuoso di una startup, di chi si è rimboccato le maniche, ha lanciato un'impresa, un'attività di impresa negli anni di crisi, e poi le altre notizie che ricordavo, soprattutto di carattere nazionale. La classifica della settimana. Allora, avremmo potuto, ma cerchiamo di essere seri, occuparci di strani casi di cecità. C'era un cieco, dov'è che l'avevamo beccato? C'era il caso di un avarese, un centralista cieco che però giocava la guerra nei boschi, e si è fatto pure la foto su Facebook, chissà come sparava, e l'ha tradito. Oppure potremmo occuparci di altre amenità, come di un giudice che a causa delle troppe pratiche ha rinviato l'udienza al 2019 perché ha 160 sentenze l'anno a Taranto. E invece partiamo sui soldi pubblici, e qui c'è di mezzo il Capodanno. Ora, io lo dico ogni volta, per chi vi parla, attaccare la RAI è, da un certo punto di vista è scorretto, perché è un concorrente, Radio RAI. Però essendo anche chi vi parla una persona che paga il canone, e col canone in bolletta sappiamo che entreranno anche più soldi nella raccolta del canone per la RAI, beati loro, e arriveranno in bolletta, a quel punto diventano, lo sono sempre stati, soldi pubblici, ma ci mette ancora più attenzione, mettiamola così, no? Allora, che succede? È ancora al centro delle polemiche la trasmissione di Capodanno, o meglio, della notte di San Silvestro, la bestemmia, il playback, quant'altro, ma non è di questo che voglio occuparmi. Vorrei capire come mai sono scesi a Matera per fare per l'organizzazione della notte, della puntata l'anno che verrà, quasi 300 persone che non sono ricadute sui soldi diretti della RAI, però anche i soldi della Regione Basilicata, abbiate pazienza, sono soldi pubblici, non sono soldi del presidente Pittella del PD. Perché? Perché c'è stato un accordo tra la RAI e la Giunta Regionale della Basilicata, anche un accordo giusto, ci mancherebbe, in modo che venga realizzato un programma televisivo che sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il 31 dicembre, sia il 2015 che il 2016 che il 2017 che il 2018 che il 2019. L'obiettivo qual è? Matera è capitale della cultura, e valorizzare il ruolo di Matera come capitale della cultura nel 2019. Ora l'accordo va benissimo, insomma, 4 anni di diretta da Matera per la notte di San Silvestro. Il problema è mandare 300 persone giù. Ora, ripeto, il fatto che i soldi li paghi, il grosso lo tiri fuori la Regione Basilicata, non è che mi faccia più contento, perché anche i soldi della Regione Basilicata sono soldi pubblici. Allora, 130.000 euro solo di hotel, a parte che 300 persone io vorrei capire per fare che cosa. 130.000 euro solo di hotel, l'impegno è di 460.000 euro al netto dell'IVA. Con 460.000 euro è chiaro che la convenzione prevede anche l'ospitalità alberghiera, ma non quella gastronomica. Vabbè, lì però, da questo punto di vista, i tecnici, la redazione, le maestranze hanno risolto con un compenso forfettario di 60 euro per colazione, pranzi e cene. La regione ha pagato i 138.000 euro di hotel, perché erano solo 3 o 4 stelle, per fortuna non a 5 stelle. Poi ci sono delle cose strane, non voglio fare pulci ad altri, ma insomma, due tronconi di personale RAI arrivati a Matera. Uno è partito da Milano per realizzare le strutture tecniche. In un primo momento si era pensato a una squadra del centro di produzione di Napoli, ma poi la RAI ha optato per Milano. Un po' strano che per andare a Matera tu non usi il centro di produzione di Napoli e usi quello di Milano. Sono soldi nostri, non parlo della RAI come, diciamo, un legittimo e ammirevole concorrente di questa radio, ma parlo proprio da cittadino che paga il canone. Poi, da Milano sono partiti gli appalti esterni tecnici e materialmente destinati alla costruzione del palco. Da Roma si è mosso invece l'universo editoriale di Rai 1, i conduttori, gli autori, la regia e la redazione. Allora, al di là del risultato, che per correttezza non commento, 300 persone sono un po' tantine, anche perché il contratto prevede 2016, 2017, 2018, 2019... Vediamo di darci un taglio alle persone, soprattutto perché, ripeto, anche i soldi della Regione Basilicata sono soldi nostri. Andiamo al quarto posto, sarebbe un quinto posto ex aequo, perché c'è anche il veglione di Capodanno nel Palazzo Storico di Bagheria. Ora, io so già che attaccare i grillini adesso, uno dirà, vedi che con le vicende di cronaca tu attacchi... No, è una pura coincidenza. Allora, l'antico Palazzo Aragona Cutò a Bagheria, l'amministrazione del comune è grillina. Faccio notare che 3 mesi fa l'assessore alla cultura Romina Aiello, quando si è insediata, ha dichiarato la volontà di valorizzare gli edifici storici di Bagheria, e fa bene. Le chiedo come si fa, o meglio, è far pagare 500 euro l'affitto di un palazzo storico dove vanno 200 persone a ballare lasciando bagni sporchi, casse dei superalcolici negli uffici dell'archivio della biblioteca comunale, e che costituisce preziose collezioni librarie e anche collezioni di quotidiani, 500 euro, secondo lei, è valorizzare un palazzo storico? Ma io non lo so. Ma fate, informatevi su quelli che sono i prezzi chiesti dai privati. Con 500 euro, ma forse i cocktail che costavano, per la precisione, 30 euro. Era bella, averlo saputo ci andavamo anche noi. Con 30 euro, dove l'avevo visto? Con 30 euro si beveva. 30 euro a testa per l'open bar. A Capodanno, 30 euro a testa all'open bar, ragazzi. Avvisateci. Allora, la dimora è un edificio storico del Settecento ed è sede appunto della Biblioteca Comunale di Bagheria. Tra l'altro il Comune avrebbe violato il regolamento che prevede l'uso del palazzo solo per convegni, seminari e manifestazioni di carattere culturale, non diciamo per il veglione di Capodanno, e avrebbe bypassato anche il no di Lea Amodeo, che era dirigente comunale che si occupa del contenitore culturale. Lo ha segnalato il consigliere comunale Filippo Tripoli, che è vicino alla lista Noi per Salvini, e ha presentato anche una denuncia. Io dico, vabbè, al di là del regolamento comunale, ma se proprio devi fare un'eccezione, fatela pagare 500 euro. Io vorrei sapere quanto hanno pagato di biglietto e quanto hanno guadagnato gli organizzatori. Oh. Al terzo posto restiamo in Sicilia, terzo posto sì, perché il quarto era un ex equo. Per il Parlamento siciliano, oggi andiamo di ex equo perché c'è sia il Parlamento siciliano che il municipio di Bari. Allora, in Sicilia, si chiama Parlamento perché è una regione autonoma, il bilancio degli ultimi due mesi dell'Assemblea regionale siciliana è di appena 3 leggine per una spesa di 26 milioni e mezzo di euro. Dal 31 ottobre al 29 dicembre l'Assemblea regionale siciliana ha lavorato in tutto poco più di 2 ore a settimana, praticamente sono 17,4 minuti al giorno o 8 ore e mezza al mese. No, una volta, anni fa, c'era il tema delle 8 ore al giorno, delle 35 ore settimanali, qua fanno 8 ore e mezza, hanno già risolto l'Assemblea regionale siciliana, hanno già fatto... Stanno andando meno a lavorare, meno a lavorare tutti. Il problema è che lavorano meno loro e non lavorano gli altri siciliani. 8 ore e mezza al giorno. Allora, la prima metà di dicembre, nella settimana che si è chiusa il 6 dicembre, l'Assemblea regionale siciliana ha svolto 29 minuti di attività. Nella settimana successiva 26 minuti di attività. Il 2 dicembre i parlamentari si sono ritrovati alle 16.07. E hanno lasciato l'aula alle 16.36 dopo aver dichiarato guerra alla Polonia. Non so cosa hanno fatto. Il 10 dicembre la riunione è cominciata alle 17.03 e i lavori si sono chiusi alle 17.29, immagino con i gettoni di presenza. Ora direte, vabbè, però che cosa hanno deciso in questi 20 minuti fondamentali, il 10 dicembre e il 2 dicembre? Allora, pensate che il 15 dicembre in realtà il morbo di Stakhanov si impadronisce dei parlamentari siciliani perché lavorano 211 minuti, insomma esausti, 211 minuti per un dibattito sulla mozione di sfiducia Crocetta. Il 10 novembre erano rimasti impegnati per 226 minuti nella discussione sulla nuova giunta, le leggi 3, fine. Il prezzo che paga la collettività, allora, 160 milioni di euro l'anno costa l'Assemblea regionale siciliana, quindi basta dividere per i due mesi, sono 26 milioni e mezzo. Praticamente ogni minuto di attività dell'Assemblea regionale siciliana, caro Ardizzone, costa 26.600 euro. Neanche quelle di alto bordo, ma di altissimo bordo, riescono a costare così tanto. 26.600 euro costa ogni minuto di attività dell'Assemblea regionale siciliana. Sembra normale. Allora, ma dategli la metà e non fateli incontrare. A questo punto risparmiamo. Intanto, per quello che decidono, almeno non si, che si vedono la metà e paghiamo la metà. Però quando è chiusa non paghiamo. Andiamo al secondo posto. Anzi, scusate, mi avevo promesso che c'era anche Bari ex equo. Perché a Bari è successo una cosa un po' diversa invece. Lì Stakhanov è presente anche il 31 dicembre. 36 euro per 6 sedute di commissione, moltiplicate per 5... 6 componenti, in tutto circa 1000 euro spesi per annunciare lo spettacolo di piazza già in calendario o il presepe vivente organizzato a Loseto, quartiere di Bari. Ma l'anno prossimo dobbiamo pensarci prima per farlo meglio. È una minaccia, non è una promessa. Praticamente era questo l'oggetto delle riunioni della Commissione Cultura, Sport e Servizi Sociali del quarto municipio, che comprende i territori di Carbonara, Ceglie e Loseto. Il portavoce, in questo caso del Movimento 5 Stelle, dice: commissione inutile e inopportune. I sei consiglieri che fanno parte della commissione hanno deciso di continuare a riunirsi anche tra Natale e Capodanno. Così si sono riuniti il 28, il 29, il 30 e il 31 dicembre, poi il 4 e il 5 gennaio. Tutti questi sono veramente staccano nella commissione cultura di Carbonara Ceglie. L'ordine del giorno obiettivamente era un po' latitante, anche perché tra Capodanno, tra fine 2015 e inizio 2016, c'è sempre il punto comunicazioni, sviluppi sul confezionamento e distribuzione. Mi devo mettere un attimo serio. Allora, l'oggetto di questa comunicazione riguardava comunicazione sugli sviluppi sul confezionamento e distribuzione dei doni raccolti da devolvere in beneficenza, e ricordare ai consiglieri le date già note di manifestazioni sul territorio. Quindi, se ho ben capito, vi riunivate per comunicarvi tra voi sei, ma non basta il telefono, SMS, WhatsApp, come stava andando il confezionamento e la distribuzione dei doni raccolti da devolvere in beneficenza, ma consegnateli voi, e la comunicazione la fate in automatico, e poi per ricordarvi a voi tutti, magari era una sorta di autoanalisi, quando si sarebbero ottenute le manifestazioni fondamentali, lo spettacolo di piazza o il presepe vivente di Loseto. Con il risultato che avete avuto 26 gettoni di presenza, poca roba, qualche migliaio di euro, ma voglio dire per nulla. Non li potevate andare questi soldi destinare in beneficenza, così la comunicazione la facevate da soli. Andiamo dopo il metro pubblicità al primo posto della Natura Lotto oggi, vai. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni per la classifica. Ho detto primo posto, manca il secondo. E che secondo posto? Vedo però, a parte molti che mi chiedono di non dimenticare il portafoglio, perché poi c'è Cruciani, lo so, lo sappiamo, ma tanto è tutta fiction quella. Ma mi chiedono di quello cieco. Guardate che il centralinista cieco di Varese, cioè con un grosso deficit visivo, adesso uno ci può ridere perché l'hanno beccato, perché si faceva fare foto su Facebook mentre andava a giocare a fare la guerra nei boschi di Varese, sparava lì con soft air, si chiamano, con i fucili, e molti scrivono sparava la cieca, blind art e quant'altro. Però il tema è in realtà un po' più delicato, perché lui ha avuto quel posto in quanto appunto non vedente, e quindi ha occupato oltre che avere la pensione di invalidità, ha occupato il posto che ha qualche altra persona con veri deficit. Questa è la cosa più grave che fa arrabbiare, ecco perché poi ci rido poco. Faccio notare, ma non voglio commenti su questo, che lui figurava affetto da un grave deficit visivo riscontrato nel 1990 da una commissione medica di Palermo. Andiamo al secondo posto, e in quel modo era entrato nella classifica dei posti per i disabili, rubando tra virgolette il posto a un disabile apparentemente meno disabile di lui, in realtà più disabile di lui. Questa è la cosa vergognosa. Magari la prossima volta che va a giocare a, lo dico scherzando, a soft air, che invece che esserci il liquido, l'inchiostro, non può metterci anche il sale, vediamo. Andiamo al secondo posto, dove c'è la regione Sicilia, e vai, 4 miliardi e mezzo di euro, magari fossero di lire, di finanziamenti europei che dovevano servire nel periodo 2007-2014 a migliorare l'economia e le infrastrutture, facendo uscire la regione Sicilia dalle regioni obiettivo 1, cioè le ultime in Europa. Non ce l'ha fatta la Sicilia, anche perché la disoccupazione, il PIL è tutto peggiorato, ma la cosa grave, uno dice, sai, abbiamo utilizzato questi 4 miliardi e mezzo per incentivi, formazione e altre cose, anche per un welfare fatto bene, anche per lavori sociali, ma che? Certo che la crisi ha giocato un ruolo, ci mancherebbe, però se uno va a vedere il libro mastro di chi ha beneficiato di questi fondi, ci accorgiamo che si tratta di 6.444 soggetti, ma soprattutto che dai governi Cuffaro oggi la pianificazione è folle, meglio, folle sarebbe quasi meglio, diciamo che volutamente folle forse. La spesa viene dispersa in mille rivoli pensate che ci sono 4.300 finanziamenti che non superano i 50.000 euro, ma la cosa che mi fa ancora più incavolare è che si spende molto di più per la pubblicità, ma chissà perché, un po' come le consulenze, la pubblicità, più che per i grandi progetti di ricerca universitaria. Cioè, oltre, allora, 40 milioni, oltre 40 milioni per pubblicità, molto più di quanto ha speso per la ricerca universitaria. Per le manifestazioni turistiche 200 milioni, con eventi sportivi, li abbiamo raccontati in questi anni, che dovevano attirare migliaia di visitatori, hanno visto in alcuni casi solo poche decine di partecipanti, come i famosi Open femminili di golf, costati 1.200.000 euro, dove c'erano più palline e mazze che golfiste. Allora, se, no, c'è una cosa, se non riesco a non ridere perché poi vado al primo posto, pensate che sono riusciti a spendere perfino 700 euro per il caffè offerto ai partecipanti di un seminario su come si utilizzavano i fondi dell'Unione Europea. No, nel massimo, cioè, nel buttare via i fondi dell'Unione Europea, sei riuscito a buttare via i fondi dell'Unione Europea anche per pagare il caffè a un seminario che aveva come obiettivo quello di capire come non buttare via i fondi dell'Unione Europea. Vabbè. E poi la cosa più interessante è che una delle spese più grandi di tutto il programma, pari a 400 milioni, è finita in due fondi finanziari che giacciono da anni nei conti correnti di un gruppo di banche. Fateli redare con un progetto, non ne posso più della Regione Sicilia, non ne posso più. Ma visto che parliamo di fondi europei e il pesce puzza dalla testa, al primo posto adesso abbiamo forse una sorpresa. And the winner is il Parlamento europeo. Nel senso che poi noi critichiamo i comuni, le province, le regioni quando fanno, a partire da queste inutili missioni in cui andavano mogli, amanti, amici, o le Marche incontrano la Cina, l'Emilia Romagna che incontra il Brasile, cito a caso, ma me ne ricordo una marea. Ora, perché lo dico? Perché è lo stesso Parlamento europeo che si è stupito del costo delle sue missioni all'estero. Questo è un po' come il caso del caffè offerto al convegno per capire come non sprecare i soldi europei, caffè offerto con i soldi europei. Cioè il Parlamento si stupisce di se stesso. Nella risoluzione sul bilancio 2013 il Parlamento europeo richiama se stesso all'attenzione sui costi relativi al 2013 delle delegazioni delle assemblee parlamentari paritetiche, delle delegazioni ad hoc e delle missioni di osservazione elettorale al di fuori dell'Unione, che ammontavano a circa 5.800.000 euro. Chiede a se stesso che sia elaborata entro la fine del 2015 una precisa presentazione dei costi per questi settori per il periodo che va dal 2005 al 2015. In particolare rileva a se stesso che il costo di una delegazione a un'assemblea parlamentare in Cile è ammontato a 500.000 euro. Cioè, hanno speso per andare a Santiago del Cile per 3 giorni, no? Una missione che la stessa Assemblea di Strasburgo critica a se stessa, per partecipare alla sessione plenaria della Latin American Parliamentary Assembly, May, una roba fondamentale questa, eh? Costo del viaggio per la delegazione parlamentare 493.000 euro. Ma che avete fatto in 3 giorni in Cile? Poi quello che so io, Cile costicchia, ma non è proprio carissimo. 400. Ma poi cos'è la Latin American? Tu sei europeo, che c'entri? Vai come osservatore e fatti mandare gli atti e visualizzali, fatti mandare un video, scaricatelo, non lo so, fate uno streaming, ma che cavolo, 493.000 euro. Ma non c'è solo questa, ci sono 9 pagine di missioni per un totale di 6 milioni di euro. Il documento si chiama Budgetary and the Financial Management of the European Parliament in 2013. Secondo me i consulenti erano siciliani, oppure i consulenti di Strasburgo sono andati in Sicilia. Dopo il viaggio in Cile, infatti, è segnata la partecipazione alla 26esima sessione della Joint Parliamentary Assembly tra Unione Europea e Africa, Caribbean and Pacific Group of States, anche qui May, ad Addis Abeba, in Etiopia, nel novembre 2013. Anche lì, no. Quanti dovete andare? 385.000 euro. Include la trasferta degli europarlamentari impegnati, quella dei funzionari e quella dei numerosi interpreti, più i costi vari ed eventuali. Le delegazioni e le missioni vanno Da Madagascar al Giappone, dal Brasile alla Thailandia, dal Sudafrica all'Australia. Mai che siano andati nei posti oggetto di cronaca in questi mesi sui flussi migratori. Cioè l'Europa, con tutto il bene, diciamo, se la metta via Lady Pesce Mogherini, non conta una mazza dal punto di vista della politica estera, come si dimostra ampiamente in questi ultimi mesi. Non ha palmazze golfisti, che stiamo parlando, visto il caso della Sicilia, non ha obiettivamente una politica estera unica, e infatti la Germania si fa la sua e via così, però poi è bravissima a mandare i suoi europarlamentari, famosi in alcuni casi per le assenze, in Cile per appunto sto cavolo di Latin American Parliamentary Assembly, ad Addis Abeba per questo fondamentale, che cioè sono Yalta, Bretton Woods e Addis Abeba, il Joint Parliamentary Assembly tra l'Unione Europea e Africa Caribbean Pacific Group of States, e poi anche per mandarli in Madagascar, paese che è problematico, cioè ovviamente Madagascar, altro che la Siria, Madagascar crea problemi, la Thailandia problemi enormi, l'Australia paese pieno di problemi. Sarà un caso, ma se io dico Madagascar, Brasile, Thailandia, Sudafrica e Australia, a uno non è che vengono in mente flussi migratori, terroristi, vengono in mente spiagge, cocktail bar, e vabbè, e qui mi fermo perché appunto dopo le 18.30 c'è un programma che si occupa anche di queste cose. Allora, volete sapere chi è in testa come costo totale per singolo euro parlamentare? È proprio Madagascar. I quattro giorni nella capitale Antananarivo, 8.800 euro di costo medio per ogni parlamentare europeo. I tre giorni a Brasilia, 8.100 euro. Il Nicaragua, 7.900, che vuol dire pure il Nicaragua spende 7.900 euro al giorno a testa. Poi Bali, 7.800 euro. E dice, attenzione, è una spesa proporzionata, anche perché, e con questo concludiamo con un bellissimo applauso, pochi di voi forse sanno che l'Unione Europea ha una struttura imponente all'estero che affianca, molto spesso inutilmente, le rappresentanze diplomatiche dei paesi dell'Unione Europea. Pensate che ha 139 sedi all'estero e ciò nonostante spende un po' di cifre per le missioni inutili, di convegni inutili all'estero. Beh, numero uno. Certo che oggi tra Palermo e Bruxelles il passo è breve, traffico. Focus Economia. Eh sì, you make my day con queste notizie, me l'hai rovinata la giornata più che avermela riempita. Allora, sì, lo so, qualcuno, io non capisco solo un messaggio, tantissimi messaggi qui, dice, anche oggi, cos'è che ha scritto questo ascoltatore? Alla fine della classifica è arrivata la leccata al governo, vale a dire tutti i ladri, nessun ladro, ma io non so. Adesso, se lei ha già finito di lavorare va bene, ma se no, cioè, si fumano certe cose dopo il lavoro, non durante il lavoro. Ma cosa ha capito? Cioè, ma dov'è la leccata al governo? Abbiamo criticato i comuni, le regioni e anche la RAI, e anche Bruxelles, non so chi dobbiamo attaccare ancora. Andrea Pizzarulli, amministratore delegato e cofondatore di Civitanavi System, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, lei rappresenta in questo caso, lo facciamo apposta volutamente, dopo questa sfilza di sprechi a tutti i livelli, qualcuno che invece lavora, mettiamo così, che ha deciso di lavorare, no, tutti i nostri ascoltatori lavorano, la maggior parte mi auguro, ma che ha deciso di creare un'attività proprio negli anni della crisi. Cos'è Civitanavi System e quando l'avete fondata e dove? Allora, la Civitanavi Systems è un'azienda che diciamo, progetta e produce sistemi per la georeferenziazione, in sostanza dei sistemi per la ricerca del nord, delle bussole, volgarmente dette. È stata fondata nel 2012, quindi abbastanza recentemente, e in questi anni abbiamo fatto diciamo parecchie cose. Abbiamo cresciuto un'azienda da zero a circa 30 persone con un fatturato. Insomma, No, io capisco che l'azienda faccia geolocalizzazione, io vorrei geolocalizzare lei però sul cellulare perché la sento un po' male, se riusciamo a migliorare il collegamento. C'è il vento? È un no, fisso? Ah, complimenti alla Telecom. Ah, per fortuna, va bella, cos'era l'Italia digitale. Allora, senta, oggi non ce la posso fare, Pizzarulli, andiamo avanti. L'avete fondata nel 2012, lei e chi? Diciamo, l'idea è iniziata da me e ho subito coinvolto un amico dagli Stati Uniti, nell'area di Boston, che si chiama Michael Perlmutter. Ok, la geolocalizzazione immagino di capirla, però cosa vuol dire? Per le navi? Ma dunque, non necessariamente, no. Noi, questa è, tra l'altro è una delle nostre particolarità, lavoriamo in parecchi settori che vanno dal settore aerospazio al sottomarino, in grotta, diciamo in miniera. Diciamo tutti ambienti in cui o il GPS non è disponibile, per esempio in grotta o sott'acqua, o magari in applicazioni più di militari o difesa in cui il GPS non è ritenuto affidabile. Per cui noi diamo un sistema. Cioè là dove il GPS e gli impianti magnetici non arrivano? Esattamente. Quindi noi diamo un sistema, diciamo, che è un sistema molto accurato e molto preciso, che permette di georeferenziare e di avere diciamo, una direzione di riferimento per applicazioni che richiedono avere un riferimento, tipo trivellazioni, survey, cose di questo tipo. Ok, allora voi lei si è laurato dove, tra l'altro? Dunque, e in che cosa? Diciamo la mia storia professionale nasce nella Silicon Valley, negli Stati Uniti, in un garage. Sì, in realtà ho lavorato per una startup, però all'epoca era la startup. Cioè lei si è laureato nella Silicon Valley, non ho capito, la laurea dove l'ha presa? La laurea l'ho presa in Ancona, nelle Marche, ingegneria elettronica. Bene. E poi ha lavorato alla Silicon Valley? Sì, perché appena diciamo uscito dall'università ho fatto uno stage in azienda e ho fatto una considerazione che o avevo sbagliato facoltà o avevo sbagliato paese, per cui diciamo ho optato ecco, per però questo mi interessa, Pizzarulli, però poi lei dalla Silicon Valley è tornato, allora qui ci sono due possibilità, o ha cambiato pusher quando era in California oppure c'è un altro motivo. Ecco, questa è una bella domanda che in molti mi fanno. È la giri a sua buccia. Dunque, allora, faccio una premessa. Secondo me negli Stati Uniti è il posto migliore per lavorare come approccio proprio alla tipologia di lavoro, l'approccio al mercato, l'organizzazione, eccetera. E io ho appreso questa cosa e sto cercando di portarla, di applicarla assolutamente nella mia azienda. Però l'Italia è un bel paese. Cioè tutti mi dicono sempre che l'Italia è bella per essere in vacanza, diciamo, vissuta in vacanza, ma in realtà secondo me no, per cui sto cercando di impostare un'azienda che nasce all'americana però in un bel paese come l'Italia. E voi la sede ce l'avete a Civitanova Marche, giusto? L'azienda è nata a Civitanova Marche, adesso siamo a Pedaso, leggermente più sud, ma abbiamo anche un ufficio a Roma. Quanti siete diventati e quanto fatturate? Dunque, adesso siamo 30 persone e fatturiamo 4 milioni di euro all'anno. E prospettive, che 4 milioni per 30 persone non è il massimo, se poi fossero europarlamentari o parlamentari siciliani ci campano una settimana, ma dicevo, insomma, avete prospettive di crescita sul fatturato? Assolutamente sì, noi contiamo di arrivare alla fine del 2016 con circa 6 milioni di euro di fatturato, abbiamo delle proiezioni fino al 2018 in cui proiettiamo tra i 12 e i 13 milioni di euro, nel 2016 contiamo di essere circa 40 e poi insomma. Ora, adesso parlare in questa giornata di Marche e banche, Banca Marche non è, e poi avremo anche un collegamento, però volevo capire una cosa, chi vi ha aiutato a partire, con che soldi siete partiti? Beh, dunque, questo è sicuramente una domanda interessante perché è sempre difficile partire. Diciamo, il consiglio che do, è quella che poi è stata la nostra strategia, è quello di iniziare a attori strategici, chiamiamoli così. Quindi gli investitori che non sono banche, anche perché le banche appena iniziati i soldi non li danno, Poi, il venture capitalist è un ambiente molto, molto particolare, molto strano. Tecnologia. Zerulli, io purtroppo 40 secondi. Chi vi ha aiutato? Quindi abbiamo trovato degli investitori strategici che sono aziende che nel settore capiscono la tecnologia e hanno apprezzato il nostro business plan. Quindi banche non vi hanno aiutato? Poi dopo, appena iniziato, le banche poi ci hanno supportato assolutamente. Mi dica qualche nome, così, quando ci sono esempi virtuosi, perché non farli? La Carifano, Gruppo Creval, è quella che ci ha creduto fino all'inizio. No, ma quando ci sono le banche che credono in un progetto senza chiedere, diciamo, come in cambio anche la suocera, magari chiede solo la suocera, noi le citiamo volentieri. In bocca al lupo a Andrea Pizzarulli e soprattutto ai 30 dipendenti, sperando che diventino veramente 40, in una regione come le Marche, che ha conosciuto anche più di una difficoltà nella crisi degli ultimi anni su vari distretti. In bocca al lupo, andate avanti, bravi anche per il settore d'attività. Adesso GR24, dopo torniamo invece sulle entrate fiscali, su Banca Marche e Popolare Etruria e anche sul mercato immobiliare. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira, ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 20.30, qui su Radio 24. Focus Economia. -18.8, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Adesso la borsa, -1.60% alla fine della chiusura, sotto i 20.000 punti chiaramente, quindi ritornata ai livelli di un anno fa. Parigi -1.60, Francoforte -1.30, Londra -0.70. Questa mattina c'è stato un tentativo di rimbalzo delle borse cinesi, Shenzhen e Shanghai intorno al 2% il rialzo, non c'è stato nessun rimbalzo a Tokyo -0.40, un tentativo anche a Hong Kong +0.70%. Euro su dollaro a 1.08. Tra i titoli sempre male Ferrari, anche oggi -6% a 40, l'ultimo prezzo è 40 euro per azione. Il calo a questo punto di quasi, adesso faremo i conti, quasi 20% da inizio anno, ma chiedo conferma da inizio anno, da quando è sbarcata Piazza Affari, che è appunto inizio anno. Chiedo conferma a Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. Andrea, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Ferrari. Sì, Ferrari un'altra performance veramente negativa, così come tutto il settore delle auto. Aveva esordito a Piazza Affari a 43 euro nel primo giorno. E quindi il calo è nettamente inferiore, prego. Sì, quindi diciamo il calo è inferiore al 10%, insomma. Sarà il 9%, esatto, il prezzo di rettifica rispetto a, certo, diciamo, nello scorporo di Fiat era 43,44 euro, quindi sostanzialmente ha perso 4 euro e circa un po' meno del 10 e circa 500 milioni di capitalizzazione nella sua prima settimana a Piazza Affari. A questo movimento, si va detto, non per giustificare Ferrari, non ho conflitti di interesse purtroppo, ma va detto che è stato, come tu già accennavi, una settimana pesantissima per il settore auto. Fiat Chrysler perde oggi il 4,1%. Come conseguenza dei cali pesanti, Andrea, in Germania per i titoli principali automobilistici, visto quello che sta capitando in Cina, non è un mistero che Volkswagen e BMW esportino moltissimo in Cina. Sì, esattamente, per Volkswagen in particolare. E anche Brasile su Fiat, scusa, sì, ti interrompo. Per Volkswagen in particolare, diciamo che la notizia dell'azione legale avviata dal governo degli Stati Uniti per il Dieselgate, le turbolenze e le forti inquietudini sull'andamento della crescita americana hanno costituito, diciamo così, una tempesta perfetta su questo titolo e su, come tu ricordavi, sulla gran parte dei titoli del settore auto tedesco, che soffrono e sono più esposti in Cina. Per quanto riguarda Fiat invece, le cattive notizie sono arrivate soprattutto dal Brasile, perché i dati diffusi tra ieri e l'altro ieri dalle associazioni di categoria dei costruttori segnalano una nuova contrazione a dicembre del 30% rispetto all'anno precedente del mercato brasiliano e delle vendite per il gruppo Fiat. Brasile, che ha costituito, sì, il tallone d'Achille per tutto il mese di 2015 e che continua a preoccupare gli investitori per quanto riguarda il settore auto. Allora, cambiando tema invece, al di là della bufala, lo dico perché molti di voi l'avranno vista sulle agenzie, non è vero che il marchio Motorola viene chiuso da Lenovo. Abbiamo parlato con il nostro Enrico Pagliarini, che è inviato a Las Vegas, e adesso c'è una rettifica anche da parte delle agenzie, era stata capita male una dichiarazione. Ma al di là di Motorola e Lenovo, oggi a Milano uno dei peggiori titoli, dopo Ferrari meno 6, c'è la Pop Milano meno 4,90, e adesso arriviamo, ma c'è anche Steam Microelectronics meno 4,5% sui dati deludenti diffusi da Samsung, se ho ben visto. Sì, esattamente, i dati di Samsung soprattutto l'andamento delle vendite dei telefoni cellulari sono stati il motivo del calo di oltre il 4% di ST Microelectronics. Ricordiamo che arrivi in una settimana in cui anche Apple ha comunicato una riduzione della produzione degli iPhone. Queste sono le indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni, e questi due elementi sul settore di telefonia per due di clienti importanti per quanto riguarda ST Microelectronics prodotti telefonici si stanno facendo sentire, e anche sugli altri produttori di chip e di apparecchiature tecnologiche. Chiudiamo invece con le banche. Dicevo, della Pop Milano meno 4,91, Banco Popolare meno 4,1%, ancora UbiBanca meno 2,80, Mediobanca meno 2,40, Pop Emilia Romagna meno 2,20, Monte dei Paschi meno 1,60%, e direi che poi c'è Intesa San Paolo meno 0,30% e Unicredit meno 0,30 anch'essa. Sì, era una giornata iniziata in maniera anche positiva e che è continuata anche nel pomeriggio per il settore bancario, ma invece il movimento finale ha portato l'indice europeo dei bancari a perdere l'1,3% e molti istituti italiani a peggiorare la performance, tant'è che dall'inizio dell'anno la gran parte dei titoli che tu hai citato, soprattutto le popolari, hanno perso oltre il 10%, Popolare Milano l'11%, Banco Popolare il 13%. In generale, per Piazza Affari e per le borse europee è stata questa la peggior settimana di borsa dal 2011, quindi un avvio d'anno davvero pieno di preoccupazioni, non solo sul settore bancario ma anche su altri settori, come abbiamo visto. Allora, per quello che riguarda chi ha chiuso in positivo, un tentativo di rimbalzo del lusso più 0,80% Moncler, che non era andata male però in questi giorni, Tod's più 0,30, Luxottica più 0,20, poi c'è Snam più 0,40, Italcementi più 0,10. Tra chi è andato particolarmente male, oltre ai titoli citati, aggiungo Tenaris meno 3,80, Exor, vabbè, come controllante del gruppo Fiat meno 3,30, Prismian meno 3,20, Telecom Italia meno 3%, Eni meno 2,80%, Azimut pure, Buzzi Unice meno 2,70%, il 2,5% lo perde invece lo perde Saipem, e poi Unipol meno 1,70%. Per quello che riguarda invece i migliori e peggiori della seduta, da questo punto di vista i migliori in assoluto sono stati Zucchi sul risparmio non convertibili più 13%, Trevi più 12,60%, Ecosantec più 8,70%, TAS più 6,80%. Fronte opposto, Ferrari la peggiore in assoluto oggi, poi la Cassa di risparmio di Genova meno 5,70%, Invest meno 5,30%, meno 5,30%, RCS Media Group meno 4,92%. Grazie Andrea Fontana e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Coro Sole 24 Ore. Traffico. Focus Economia. Restiamo in tema di banche, ma per parlare delle famose quattro banche: Banca Marche, Cari Ferrara, Cari Chieti e Banca Popolare dell'Etruria. In realtà oggi parliamo soprattutto della Popolare dell'Etruria, perché da un lato ci sono state perquisizioni della Guardia di Finanza in 15 società per omessa comunicazione del conflitto di interessi, lo rende noto la Procura della Repubblica di Arezzo, una serie di operazioni aziendali che hanno contribuito alla crisi finanziaria della banca. Io aggiungerei anche quei 30 milioni di euro pagati in consulenze, ma insomma, poi vedremo, ne vedremo delle belle lì dentro. Anche un incontro tra Bertola, che è l'amministratore delegato della nuova Banca Popolare dell'Etruria, e i risparmiatori, se ho ben capito, nella sede di Banca Marche. C'è il nostro Giorgio Stamatopoulos in collegamento. Giorgio, buonasera. Buonasera, sì, esattamente. Un incontro, diciamo così, che è importante di per sé perché è il primo faccia a faccia, diciamo, dopo le tante proteste organizzate dal comitato vittime del salvabanche, come ricorderete il 22 dicembre sotto Banca Italia a Roma, e poi il 28 dicembre hanno replicato ad Arezzo sotto la sede storica appunto della Banca Popolare dell'Etruria. Un primo faccia a faccia appunto tra la dirigenza delle New Bank e i portavoce del comitato, che è avvenuta all'interno della sede di Banca Marche a Roma ed è durata quasi due ore, e si è conclusa su posizioni, diciamo così, interlocutorie. L'amministratore delegato della nuova banca, Roberto Bertola, al nostro microfono si è detto soddisfatto, diciamo, di quello che ha definito solo l'inizio di un dialogo per trovare una soluzione, che però secondo lui passa solo e unicamente attraverso l'intervento del governo. Io direi che possiamo direttamente sentirlo in un breve passaggio. Aspettiamo che il governo stabilisca le regole per poter poi collaborare con loro per ristorare il più in fretta possibile chi le regole prevederà. Ecco, al di là dell'intervento del governo, il sistema creditizio privato non sente il dovere, diciamo, di recuperare un po' di credibilità? Crediamo con le nuove banche di fare moltissimo per il territorio, vogliamo farlo, siamo banche solide, siamo banche liquide, siamo banche senza sofferenze, e quindi noi crediamo che il nostro territorio, la nostra attività possa recuperare moltissimo e avere molte possibilità per il futuro. E allora, insomma, era evidente dall'altro lato, sull'altro fronte, diciamo così, la delusione dei rappresentanti del comitato vittime del salvabanche, perché nessuno degli strumenti, diciamo, ipotizzati alla vigilia di questo incontro per reperire risorse, per colmare, diciamo, le perdite subite dagli azionisti e dagli obbligazionisti delle quattro banche salvate, è stato accolto, almeno per il momento. Ne possiamo ricordare alcuni di quelli ipotizzati: risarcimenti attraverso la sottoscrizione di nuovi titoli, per esempio, oppure il ricorso alle plusvalenze, oppure i crediti d'imposta. Insomma, una trattativa che, se di trattativa possiamo parlare, si preannuncia tutt'altro che rapida e facile. Intanto, allora, Giorgio, sì, su questo una precisazione. Il 12 no, un attimo. No, una precisazione la devo fare io. Ha ragione, perché ho già il messaggio, mi sto legato Bertola, a dire che la banca è solida e liquida. hanno ragione quelli che scrivono te credo, nel senso che adesso sono tutte la nuova Banca Marche, la nuova Banca Popolare dell'Etruria, solide e liquide, perché tutte le sofferenze le hanno girate con l'operazione che ormai forse un'operazione bancaria più famosa degli ultimi anni, quella che ha sì salvato le banche ma non gli obbligazionisti delle obbligazioni bancarie subordinate. Immagino tu volessi arrivare invece alle perquisizioni della Guardia di Finanza in 15 società per verificare un conflitto di interessi in realtà con la Popolare dell'Etruria. Sì, questo sì, assolutamente, per chiudere, per chiosare invece quella la prima parte, la notizia di oggi che aggiorna tutto il quadro della vicenda, insomma, delle quattro banche fallite, che il 12 intanto, sì, martedì prossimo, è confermata la nuova mobilitazione, stavolta sempre a Roma, ma sotto la sede della Consob, che insieme a Banca Italia contestano appunto i risparmiatori truffati, avrebbero dovuto vigilare di più e meglio. L'indagine che ricordavi appunto oggi segna un punto di svolta con questo blitz della Guardia di Finanza in 15 società che hanno ricevuto finanziamenti da Banca Etruria e che sono in qualche modo a vario titolo riconducibili anche all'ex presidente Lorenzo Rosi e all'ex consigliere Luciano Nataloni, entrambi come sapete indagati dalla procura, certo, per omessa comunicazione del conflitto di interessi e per non aver comunicato al consiglio d'amministrazione che aveva autorizzato la concessione dei fidi di avere un ruolo all'interno delle aziende succitate, un comportamento aggravato tra l'altro dal fatto che quei finanziamenti sono deteriorati nel frattempo e hanno generato appunto perdite per $18 milioni. Di solito, adesso, noi abbiamo un po' di esperienza, ma di solito quando c'è un conflitto di interessi grande come una casa e un consigliere del consiglio d'amministrazione, qualcuno che ricopre ruoli importanti, si vede affidare un finanziamento per la sua società privata, difficilmente questi soldi vengono ridati, nel senso che se fosse un'operazione trasparente non ci sarebbe bisogno di essere nel CDA, eccola lì la cosa, per cui è ovvio che poi spesso questi vengono dati con altri criteri rispetto alla sana e prudente gestione, criteri che vengono applicati e venivano applicati anche in queste quattro banche in maniera draconiana, se eri un piccolo imprenditore senza amici e parenti, e quindi è ovvio che questi diventano incagli e poi sofferenze, perché li hai dati agli amici, ai parenti, o perché parenti o perché amici, e non guardando alla sana e prudente gestione e a un affidamento insomma che avesse una qualche prospettiva. Ma ne abbiamo parlato, mi dice un ascoltatore, è 20 giorni che ne parlate e continueremo, non si preoccupi, perché poi adesso vedremo come andrà a finire su altre due banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, se non ricordo male è a inizio marzo l'assemblea degli azionisti della Popolare di Vicenza. Grazie intanto a Giorgio Stamatopoulos in collegamento con noi. Chiudiamo con una buona notizia per chi ce l'ha, brutta notizia per chi la deve comprare. Mi riferisco al mattone, che per la prima volta segna un incremento nei prezzi di carattere congiunturale, quindi trimestre su trimestre. Sottolineo trimestre su trimestre perché se uno vede i prezzi del terzo trimestre 2015 rispetto ai prezzi delle abitazioni rispetto al terzo trimestre 2014, cioè un anno prima, sono ancora in calo del 2,3%. Per la prima volta però dopo 4 anni c'è un segno più tra il terzo trimestre e il secondo trimestre del 2015, più 0,2%, che è più significativo sulle nuove abitazioni, nel senso che le abitazioni nuove hanno fatto più 1,4%, le altre invece hanno fatto sostanzialmente prezzi invariati, però questo si lega anche a un aumento sia dei mutui immobiliari, sia, certo che le surroghe fanno la parte del leone, ma al di là delle surroghe anche c'è un più 21% nei mutui d'acquisto e un aumento delle compravendite. Vorrei chiedere al dottor Luca Dondi, che è analista del mercato immobiliare per Nomisma. Buonasera Dondi. Buonasera a voi. Se si può parlare, o perlomeno secondo voi, questo è veramente il punto di svolta, il che non vuol dire che i prezzi siano ripartiti, ripeto, sono ancora coi decimali le cifre e il rialzo riguarda pressoché unicamente le nuove abitazioni, ma se questo, diciamo, può far parlare di un giro di boa nel mercato immobiliare. Ma secondo noi la conferma di un miglioramento che dal punto di vista delle compravendite e delle erogazioni di mutui si era già verificata nella prima parte del 2015 e si è consolidata nella seconda. Dal punto di vista dei prezzi Ricordiamo che la standardizzazione del paniere Istat sugli immobili non è la standardizzazione che c'è sugli altri beni, per cui prenderei con le molle questo 0,2% in aumento. I nostri dati segnalano ancora un calo, però siamo anche da questo punto di vista vicini alla stabilizzazione, che sarà poi la prospettiva anche per l'anno in corso dal punto di vista dei prezzi. Quindi da questo punto di vista lei dice l'Istat ha dei dati leggermente diversi rispetto a quello che usa per altri prezzi, per esempio dei beni di consumo. Sì, è molto difficile riuscire ad avere un paniere coerente rispetto alle altre rilevazioni, per cui ci sono delle oscillazioni che sono fisiologiche rispetto all'omogeneità del paniere nei confronti delle però delle quindi voi se ho ben capito non vedete ancora un aumento dei prezzi nel mattone, ma avete tutti i segnali dalle compravendite ai mutui al rallentamento del calo che vi portano a dire che sta per ripartire mattone, ho capito bene? Ci sono dei segnali di aumento dell'attività, questi sono evidenti, sono le compravendite e i mutui. Sui prezzi invece c'è ancora incertezza che è legata alla distanza che c'è tra le aspettative dell'offerta e le disponibilità della domanda, e poi c'è un'incognita enorme che è il peso delle garanzie immobiliari alla base dei crediti in sofferenza che prima o poi arriveranno sul mercato. È un qualche effetto depressivo sui prezzi necessariamente. Un minuto, spiegamela bene questa cosa. Le banche e il sistema bancario italiano, che ha una marea di sofferenze, cioè di crediti che non potrà più rivedere, in molti casi, non tutti, avevano come sanno molti ascoltatori, avevano come diciamo con ipoteca la casa, l'immobile, ho capito bene. Lei dice, siccome questi sono diventati sofferenze, le banche non potranno più rivedere i soldi che hanno prestato, useranno la garanzia e immetteranno sul mercato nuovi immobili, sì, cioè questi immobili usati a garanzia? Una mole enorme di immobili a garanzia, abbiamo 200 miliardi di crediti di sofferenza, circa 140 sono garantiti da immobili. 140 miliardi di immobili però. Sì, e con valori immobiliari nominalmente superiori rispetto a questa cifra, nel momento in cui questi immobili dovessero arrivare sul mercato avrebbero necessariamente un effetto depressivo sui valori. Ovviamente questo rappresenterebbe un ulteriore incentivo e stimolo alle compravendite, quindi all'aumento delle quantità. Quello che credo assisteremo nei prossimi anni è un aumento dei volumi di acquisto con prezzi che nella migliore delle ipotesi saranno stazionari, con alcuni rischi di un'ulteriore caduta recessiva nel caso in cui l'arrivo di questi immobili a garanzia fosse più significativo e massiccio, certo, e ravvicinato nei tempi rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Okay, è importante quest'ultima indicazione per non dare attesa a chi ha la casa che adesso i prezzi siano ripartiti e continuano a crescere, o in chi la deve comprare che adesso o compri subito se no ti troverai nel mercato più alto. È fondamentale, 140 miliardi di euro di immobili che finiranno in buona parte sul mercato perché era una garanzia di prestiti che le banche non rivedranno più, sono un ammontare enorme da questo punto di vista, e chiaramente siccome andranno a prezzi anche buoni, se ho ben capito il suo ragionamento, avranno un effetto calmieratore insomma sui prezzi complessivi, cioè tenderanno a lasciarli, se va bene, stabili. Grazie anche a Luca Dondi, ed è veramente tutto per questa puntata e settimana di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma e in regia. Da Sebastiano Berisoni auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo dovrà passare lavorando. Radio 24, la passione si sente.